Buonasera a tutti quanti, cari amici, e benvenuti a Web Radio Luzzi. Non è Radio Web, non è... Scusa, ma passo un caffè. Un caffè. Benvenuti al programma più idiota che c'è. Oh, ma senza zucchero, ma la passata. Penso che era dieta come a mia, senza amaro. Sì, perché sì, caffè sì. Amaro, devo dire che è una cosa spettacolare. Effettivamente si dice amaro che ne cingappa. Purtroppo ci sono io alla conduzione e me ne dispiacco, perché non so, dovremmo fare anche un minuto di raccoglimento, perché la presentatrice e il suo fidanzato, zio Francesco Pelli, sono andati a Roma con tanto di maglia della Juventus al testaccio, quindi di conseguenza abbiamo perso la conduttrice. E benvenuti alla puntata numero 1.2 di Non aprite quella persiana. Diciamo anche la puntata 1.2, nuovo corso dopo laurea, Pelli. Dopo nuovo corso dopo laurea, però ritorneranno venerdì prossimo. Sicuramente avete sentito zio Andrew qua al microfono. Che vi dà la buonasera e non la buonanotte, perché ancora è presto. E poi ovviamente c'è Carletto. Buonasera, e l'occasione per ringraziare gli ascoltatori che ci hanno seguito per mercoledì Champions. Grazie mille. Un saluto soprattutto a Milano. E poi abbiamo zio Emilio, buonasera. Buonasera a tutti. Però raga, io vi devo dire una cosa. Ci hanno accusato, di essere troppo pornografici. Quindi io devo lanciare un messaggio. Chi è questo che ci ha accusato di essere pornografico? Diciamo chi si occupa delle relazioni della CIA per quanto concerne la VR. Quindi noi dobbiamo cercare di essere casti, purtroppo. E io volevo lanciare un messaggio. E blocco anche la musica sottofondo. Ah, non ho presentato Micci di Bagnini, perdonami Micci. Ma quelle erano le chicche che ti dovevi tenere per ultimo. Ma insomma, Micci, dai, vieni veloce, vieni col tuo stile. Buonasera a tutti, sono Micci Bagnini. Salve a tutti, grazie. Un saluto radiofonico. Ciao a tutti, siete stupendi. Condividete così. Allora, volevo mangiare per coloro. Continuate così anche voi a sentirci, forse, non lo so che voleva dire. Sì, ma continuo, vogliamo sapere di più. Allora, ci hanno censurato perché praticamente, ragazzi, ci hanno censurato perché ci hanno detto che siamo troppo pornografici. Io, a questi qua che ci hanno censurati, che ci hanno detto che siamo molto pornografici, io devo lanciare un messaggio. E il messaggio è il seguente. Su canale 5 c'è stata una bella fiction l'altra sera, no? Non lo so, io non seguo la TV. Però anche su Cam Tele 3 pure ci sono belle. Però, il messaggio si è capito. Però per chi non l'ha capito, ma su canale 5 ci sono bei programmi tipo quello di Bello. Però da Web Radio Ruzzi tutti quanti in coro lanciamo il solito messaggio, poi mandiamo la canzone Suca!